Dunque, innanzitutto ovviamente sì, a Milano sono stati due i cortei che hanno solcato le vie della città: da una parte il corteo dello sciopero sociale, quindi studenti, attivisti della rete NoExpo e sindacati di base, dall'altra il corteo della FIOM, Roma un abbiamo corteo passato. interregionale. No, continua, continua, scusa. Vai, vai. Un corteo interregionale che appunto ha riunito tra le 20 e le 30.000 persone, il corteo dello sciopero sociale oltre 5.000 persone, due manifestazioni importanti che raccontano insomma però anche due piazze differenti che hanno dialogato. Da una parte ci si è mossi attorno alla parola chiave Scioperiamo Expo, intendendo con questo, come dire, una declinazione locale della convocazione dello sciopero sociale che sapesse lavorare in maniera estensiva, non soltanto andando a coinvolgere e parlare delle storie degli irrappresentati, tutte quelle persone, quelle categorie, quelle tipologie di prestazioni lavorative che non sono appunto contemplate dalle tutele sindacali, ma anche ragionando in maniera estensiva e transitiva, andando a scioperare un modello di città che è quello proposto da Expo 2015, che noi, come dire, è il grande evento a cui guardiamo non soltanto come chiave di lettura delle trasformazioni presenti, ma come laboratorio di pratiche e modi di vita. Non è un caso che il Jobs Act e lo Sblocca Italia, che erano al di là dei due provvedimenti in discussione in queste settimane, però erano anche due degli assi portanti nel discorso politico di tante altre città, come dire, raccolgano proprio quelle due logiche di precarietà a tempo indeterminato e quella commissariale che sono proposte da Expo 2015. Quindi, diciamo così, il corteo dello sciopero sociale si è mosso per le vie del centro, con partenza in Cairoli, con un evidente protagonismo studentesco, in particolare di studenti medi, e con le realtà della rete NoExpo che hanno fatto tutta una serie di azioni comunicative andando a segnalare lungo il percorso la presenza di quelle interinali che lavorano sia nella formazione lavoro che negli stage, che nei contratti precari, che nel volontariato di Expo 2015, e andando poi via via, insomma, portando un intervento all'interno appunto sopra il palco della FIOM con due striscioni giganti che sono stati appesi nella piazza centrale della città, portando due azioni in Darsena in solidarietà e collaborazione con i comitati No Canal che si oppongono da anni alla via d'acqua. Insomma, si è cercato di allacciare un pochino tutto quello che è il discorso di cui siamo stati nelle assemblee dello sciopero sociale con una dinamica molto milanese di rilancio di una battaglia che vede appunto all'orizzonte così dell'apertura dei cancelli di Expo 2015, un momento evidentemente così importante per il percorso in questi Senti, anni. come si è rapportato il corteo rispetto alla manifestazione della FIOM? Come accennavo, da una parte si è deciso comunque di fare un intervento, nonostante la presenza della Camusso, anche perché si voleva parlare alla piazza e non ai dirigenti, e si è comunque deciso all'interno dell'intervento di segnalare che una parte degli accordi che sono oggi validi in tutto il territorio lombardo e fino al 2016, quindi, come dire, realizzati con l'occasione di Expo, ma poi appunto aperti a un ventaglio assolutamente più ampio di occasioni, sono accordi dal nostro punto di vista degradanti e che hanno firmato tutti e tre i sindacati confederali. Quindi questo è stato ribadito in piazza, così come la solidarietà ai notav, insomma, così come appunto la dinamica dell'opposizione possibile ad Expo 2015. D'altra parte è stato impossibile, nonostante il percorso concordato nelle precedenti settimane, avvicinarsi proprio alla piazza della FIOM. A un certo punto, cosa piuttosto anomala così nella gestione della piazza milanese, la questura ha deciso di bloccare il corteo dello sciopero sociale all'altezza di Piazza Santo Stefano, ad una piazza, diciamo, della conclusione preventivata, bloccarla con i mezzi oltre che con gli uomini. C'è stata dapprima una carica di alleggerimento e quindi dei lacrimogeni che solitamente nella nostra città vengono usati con una certa parsimonia, nel senso che spesso c'è il contatto fisico è più frequente. Invece appunto si è deciso, come dire, di così dare un segnale di shock anche agli studenti presenti in quel momento davanti con questo tipo di pratica piuttosto anomala. Questo per non fare avvicinare le due piazze, perché era un momento in cui appunto era appena appunto intervenuta la Camusso, altri attivisti di Area Libertaria avevano provato già ad avvicinarsi. Insomma, è stata una giornata che anche al di là di questi due cortei ha visto tutta una serie di spezzoni legati al mondo della logistica, e al mondo dell'auto-organizzazione, dell'antagonismo, anche provare a collegare, a tracciare percorsi tra queste due piazze, e quindi evidentemente, insomma, poi anche al di fuori della dinamica cortese sono successe tutta una serie di cose, di episodi, di momenti di comunicazione, di blocchi mobili, per cui insomma è stata comunque una giornata assolutamente composita. Senti, è io stata ti, una giornata ti... in cui ci sembra che anche la FIOM abbia cominciato così a prendere parola, insomma, dando parola ai precari, ma anche cominciando a prendere parola su quel che sta accadendo a Milano, perché poi tutto il discorso dello sciopero sociale va anzitutto, come dire, calato in un contesto, in un territorio, in una vicenda di lotta, e quindi insomma ci è sembrato un momento assolutamente importante a un mese dal primo corteo contro Expo 2015.